Va ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarezzi. Buona giornata, buon lunedì a tutti, ben ritrovati alla nuova puntata di Caffè e Paglia, oggi particolarmente effervescente e con anche insomma una felicità intrinseca da raccontare qui sui 103 e 100 di Radio Città Fujiko. In questo momento solo Mingo da questa parte del vetro nel salotto buono della città, chissà dove saranno andati i due ragazzi, forse Fio sta ancora festeggiando la vittoria del Bologna di ieri. Simone forse può festeggiare un pareggio dopo una lunga serie di sconfitte della sua San Benedettese, però speriamo possano venire anche qua all'interno del salotto buono, dicevamo, dello Sport Bolognese per raccontarci questo fine settimana in cui insomma abbiamo visto belle cose dal punto di vista sportivo in tutti i sensi, devo dire, ha vinto tutti. Ha vinto la Fortitudo, ha vinto la Virtus, ha vinto il Bologna, cioè è stata una roba incredibile, veramente super fine settimana sportivo. Tra poco, dopo il primo stacco musicale, ci buttiamo dentro alla puntata di oggi. Entriamo dentro questa puntata finalmente con lo studio pieno, si sente anche un po' più caldo, avevo freddo quasi senza di voi, cari amici. Ciao Simo! Bella lì, buongiorno a tutti. Bene. Fio? Buongiorno, un 5-8. A quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici. Rega, c'è stato un weekend così. Ho preso freddo. Un pochino di freddo, sì, ma in realtà si è scaldato. Ma anche molto caldo. Si parte nella prima parte, ovviamente, nel Bologna, 333-180-94-94. Se volete raccontarci le vostre cose, quello che insomma avete pensato ieri, soprattutto in una partita difficile come la partita contro il Napoli, campione d'Italia, una mini supercoppa. Una volta la supercoppa la sarebbe giocavano... stata la finale, sarebbe stata la finale ufficiale. Era la finale ufficiale supercoppa. E in cui dopo al quarto minuto il tuo allenatore, il tuo portiere, che sta giocando una stagione clamorosa, si infortuna e quindi fai entrare uno che quasi nessuno conosce, perché il secondo portiere si era infortunato due giorni prima ed è risente. Quindi inizia anche così con quella situazione, sapendo che la squadra aveva giocato giovedì con il Bran per 70 minuti in 10. Non vorrei adesso riaprire cose nella memoria di Fio, un nervosismo. Però c'era tutto quello contro una squadra che invece aveva riposato due giorni in più, è il Napoli di Conte, è quello che in quel momento era il capo classifica, oltre che con lo scudetto, tutte e due. Entra dentro uno che quasi tutti, tranne le persone che erano allo stadio, considerano alto 2 metri. Non so se avete... È vero, è affascinante questa vicenda. Transfer Market 202. La Gazzetta oggi ci viene incontro dicendo che è alto 1,88. 1,90 sapevo io. È diventato 1,90. Ci sono varie fonti. Allora, se Pessina è 2 metri, Eggem è alto come Wembanyama. Perché è 20 centimetri più alto, quindi comunque sarebbe quello. È piccolo, però è buono, cioè nel senso. Allora, è piccolo, ma è 90, insomma. Forse l'uomo copertina della vittoria 2-0 del Bologna sul Napoli di ieri, Massimo Chimi Pessina. Cioè, così gli diamo anche Chimi perché ci piace. E anche perché l'altro ragazzino pure. Dopo mettiamo anche lui. Che in 90 minuti, no, 90 meno 7, perché comunque entra la partita in corso per un acciaccato Luka Skorupski, di cui speriamo di dare ottime notizie al più presto. Toccherà il pallone due volte, entrambe le volte bloccandolo a due mani. Sì, come, cioè, parate, ma... da portiere. Però non ho capito perché, per stimolare il ragazzo che non ha ancora 18 anni, ricoprirà ragazzino, è davvero un ragazzino. Il giorno di Natale lui ricoprirà 18 anni. Giusto per scaldarlo un po', gli passano la palla 4 volte nei piedi, i nostri, non il Napoli. Non è pervenuto, quindi. Lo mettono in quella fa, appena entrato, è stato forse un po' effetto shock. È la Serie A. Adesso te la prendi nei piedi, coi piedi. Sei un portiere, bene, adesso giochi coi piedi. Ma perché ha detto in un'intervista ai tempi dell'Europeo Under 17 che il suo portiere preferito di tutti i tempi è Neuer. Neuer? Allora coi piedi, ormai coi piedi. Coi piedi Neuer non è proprio... Dai... Sì. Merda, è il maestro del se stato forse il primo a portare insomma il ruolo del portiere 10 metri più avanti nelle impostazioni di gioco, già con Pep Guardiola, con è proprio scuola tedesca quella lì, comunque sì, sì. Allora lui non me lo ricorda, secondo me non è neanche 1,90, è anche un po' meno. Adesso dire la verità, vedendolo dallo stadio mi sembra un filo meno, è pesato con le scarpe, con i tacchetti, però sul cemento, quindi si alza di più, e comunque coi piedi ha avuto ovviamente all'inizio un po' di imbarazzo, non mi sembra così spigliato, mentre ad esempio Ravaglia ha i piedi educato, ecco, diciamo così, e, no, soprattutto sotto pressione, però dopo quello non è, appunto il primo tempo è stata una partita di scacchi un poco simile al basket, poteva sembrare un football americano in cui non si fa mai il quarto d'angelo, non si supera mai quell'oncia che ti arriva a fare il primo down, no? Ti fai 9 yard, esatto. E ti fermi lì un po' tutte e due le squadre, e ovviamente qualcuno, soprattutto i tifosi più giovani attorno a me, nei distinti, dicevano che brutta partita. Mi sono girato e ho detto: guarda che io ho visto Bologna Rondinella. Sicuramente altre occasioni per raccontare del perché non vedo le partite negli istinti. No, vabbè. Comunque, cioè, okay, una forse, partita. Mi avete un po' scocciato perché la state facendo lunga per arrivare al punto vero della realtà, che invece vede il Bologna in piena lotta. Scudetto, lo dico io, visto che voi vi cagate sotto. No, io l'ho detto dentro. Sono entrato in radio così, e così. Fedele dell'insegnamento così. Di Simone Maloni di ormai 3 anni fa. Cioè, è un quando, discorso che prendiamo adesso. Quando sognavamo un posto in conference, ci bastava un posto, ve lo ricordate quel tempo? Certo, in cui che ah dai, magari certo. Andare in conference. Certo. E giustamente... il buon Simone diceva: se vuoi aspirare a quel posto devi pensare a quello sopra. Esatto. E quindi esatto. In questo momento il mio obiettivo è lo scudetto. È quello, ragazzi. Siete in piena lotta. Siamo in piena lotta. Guarda Fio che fa movimenti strani. Clamoroso. Vedi che il regista se la ride tu la tua intro. Guarda che sono lì, Siamo lì. Sono lì, bello. Cioè, vanno là, guarda. L'ultima di campionato Bologna-Inter. Clamoroso. Che ricorda qualcosa di 60 anni fa. Ormai credo te la stai a fa sotto la situazione. Guarda che Dallinga fa rima con Pascutti, lo senti come fa rima? La situazione è talmente esotica che sentiamo la voce del nostro regista, la sentite anche voi a casa, incredibile. E i due allenatori interpretano in modo molto diverso il concetto di turnover. Il Napoli aveva 2 giorni in più per riposare, l'avete notato? No. Nessuno l'ha notato. Il Bologna ha giocato comunque in 10. Ha giocato con la squadra più o meno che aveva giocato martedì. Più o meno. Sì, invece mister italiano che intanto torna sulla panchina, grande Nicolini, grande, ha fatto un meraviglioso interregno, è stato sì, molto però bravo era a già, tenere. Secondo me era già tornato, però stava sì, un po' più stava un po' defilato perché aveva preso freddo. È arrivato il freddino qua in città. Sì, arrivato. Primi tratti, la mattina in particolare. Esatto. La partita a scacchi, una yarda per volta, si concretizza nel secondo tempo in cui si vede la freschezza mentale del Bologna superiore tanto a quella del Napoli, un Napoli che sembra senza idee e si fa riaggredire da questo pressing alto e continuo del Bologna, marchio di fabbrica del gioco italiano. Mi piace tanto perché è molto largo il modo in cui andare a occupare il campo. Sul gol, parliamo del gol. Il movimento che fa Dallinga è davvero bello e provato in me. Fa un semicerchio, una mezza luna all'indietro, si sposta dal ruolo di punta centrale, si mette nello mezzo di spazio di sinistra, arretrando un attimo, e in quel modo crea una serie di rotazioni, soprattutto sull'altro out, e anche sua, perché libera quel canale lì, quindi i difensori non hanno più nulla da marcare lì. Poi segue l'azione, rimane in quello mezzo spazio, lì fa un gol da attaccante vero, finalmente. Questo deve fare un centravanti, l'abbiamo sì, già esterno, detto. Sì, esterno, destro, sul la punta, primo, la punta, prendendo no? il tempo bellissimo, a uno dei portieri più in forma della bellissimo. Serie A fino a ieri. E ne abbiamo... fregando difensore e portiere in maniera perfetta, è proprio tutto la costruzione e il movimento sì, che... Sì, perché poi gli altri due compagni rimangono, uno occupa l'altro mezzo spazio, poi c'è Orsolini di là a destra che spesso viene all'interno. Cioè il Bologna davanti ha delle rotazioni offensive davvero magnifiche. Libera sempre uno spazio, sempre molto 4-5 uomini offensivi. E se quello spazio si chiama occupato da Nicolò Cambiaghi, in questo momento è veramente un problema anche per che era Di Lorenzo, quello che viene sverniciato sempre, sì. completamente. Sì. E poi il cross perfetto millimetrico per l'incrocio di Dallinga. Cambiaghi in questo momento, secondo me, è in formissima. Infatti, all'uscita dello stadio erano arrivate le convocazioni della nazionale, non c'era Cambiaghi. E io ho detto, le due partite non contano niente dell'Italia, dobbiamo andare ai mondiali con questo, ce lo teniamo a casa, riposa, sono bene, anche, sono bene, anche contento, abbiamo detto fa freddo, lascia perdere, sta a casa, sta preciso. Passano due ore e si fa male Kin e viene convocato con Bianchi, proprio adesso. È vero che immagino lui sia contento e soprattutto lo merita, cioè lo merita in maniera completa. Quest'anno sta ancora aggiungendo cose, ne avevamo già detto, è il nuovo Ndoye in un certo senso, ha imparato. Italiano sa insegnare sia a fare gol alle punte, ma è evidente che sa insegnare anche a difendere. Sugli esterni fai un No, però il lavoro di Ndoye già era difensivo sì. prima dell'arrivo di Italiano, sì. Aveva già quella sua impronta. Quella skill, cioè, sbagliava sì. gol sempre e comunque in tante situazioni. Ma quella camminata da Frosinone, dalla Ciociaria a Bologna, esatto. gli ha fatto bene. Ha fatto bene, probabilmente, sì. probabilmente è stato anche quello. Cambiaghi sta lavorando di più, perché già la parte offensiva ce l'aveva, sta lavorando molto sulla parte di copertura e ha fatto un'altra partita clamorosa. È vero che se parliamo di copertura in questo momento il Bologna sta tranquillo perché c'ha il John Lucumi, mamma mia ragazzi, che gasatissimo, questo John Lucumi è quello che poteva andare al Real Madrid, vi rendete, interessare conto, conto che ha fatto il suo primo gol in Serie A, ha fatto anche gol, cioè questa è la cosa meno importante, è la cosa meno importante della partita di Lucumi forse, però ha giocato sia questa che giovedì, perché veniva anche giovedì un'altra partita maiuscola eccezionale. Questo è quel Lucumi che può interessare alle grandi. Adesso ho lanciato un po' una bomba con Real Madrid, ma era uscito un interesse, forse il Barcellona più che il Real Madrid. Sì, per il Real, ok, il Barcellona già c'ha una fase difensiva che c'ha la fase, non ha una fase difensiva, anche nella vittoria di 4 ieri con tripletta di Lewandowski, mi sembra, anche ieri di nuovo sempre, ma poi ne parliamo, ok. Il Bologna, che c'è da dire, che Vincenzo Italiano in questo momento è nettamente il miglior allenatore in Italia, io penso, cioè, non ci sia poco insomma da analizzare, da discutere, soprattutto nel confronto diretto con Antonio Conte, campione d'Italia in carica e tutto quanto, che però ormai è una carta scoperta, cioè questo ti fa il primo anno, se tu hai fatto un anno brutto l'anno prima, lui arriva defibrillatore, ti fa rivincere subito, no, è più forte al mondo a fare quello lì, poi basta, però finisce lì, perché ha dimostrato negli anni non ha una visione periferica di tutto quello che succede, è molto male nelle interviste di post partita, non ha programmazione, non è bravo a lanciare molto bene i giovani, ti fa rivincere subito, ti fa ripartire, poi però è bruttissima l'intervista di ieri, cioè io non voglio accompagnare il morto. Si potrebbe dimettere, cioè, questo. Cioè, voglio dire, no, non è tipo da dimissioni, però è una frase, è brutta proprio, cioè, è proprio brutta. Fa immaginare anche male. Problemi di spogliatoio, sì, un ambiente non sereno, ma lui, che è uno degli allenatori meno giocatori, cioè più totem che in primus inter pares, cioè non è uno di quelli che vedi nello spogliatoio con i giocatori come se fosse ancora in campo, deve avere comunque un'autorevolezza e deve, se ci sono dei problemi in spogliatoio, risolverli prima di parlare in pubblico, di metterli in piazza. Così non è una cosa che ci si può aspettare da un uomo d'esperienza come lui. Dal punto di vista del calcio giocato, effettivamente i primi anni Bari e i primi anni Juventus ci raccontavano di quella grinta, qualcuno che io per un attimo all'epoca pensai, cioè, fosse un nuovo avvento tipo Arrigo Sacchi, cioè questo è qualcuno che può, perché guardate che il Bari di Conte e la prima Juve di Conte erano due macchine travolgenti. Sì, sì, e poi erano travolgenti. Erano le uniche due che aveva avuto nella sua carriera, quindi le prime due ti vengono così bene. Beh, cioè, dici, questo qua fa paura, e invece no, poi ha cominciato a rinchiudersi piano piano, adesso è diventato davvero, poi piange troppo. Però tutti noi, vabbè, e tu in particolare, eravate convinti, molti erano convinti che non firmasse neanche. Ti ricordi che c'è stata una lunga attesa prima della firma del contratto, quindi non è stata una roba presa così. In più, dopo questa firma, il mercato, almeno a nomi e a soldi spesi, c'è, sì, quello, certo, che lui chiedeva. Tu hai mai visto un ADL tu così tranquillo, così piegato alla volontà del suo allenatore? No, non si è visto mai. C'è una società intera nelle sue mani che ha preso tutti quelli che voleva. Ma poi, cioè, voglio dire, esterni dei problemi che tu, adesso non lo voglio ricordare, sei proprio pagato apposta per gestire. Sì. Cioè, non è che ti arrivano dall'esterno, tu non hai idea di quello che sta succedendo. No, dai l'idea che effettivamente tu non sai quello che sta succedendo. E non è così. Non può essere così. Vedremo. Però comunque, se io fossi, l'ultimo appunto, se fossi un tifoso napoletano tra ADL che dice lo stadio Maradona è davvero un cesso e Conte che dice che non vuole commemorare il morto, io un po' incazzato sarei. Un pochino. Insomma, sì. Vuoi dire, non è carino. Non è carino, non mi sembra una bella situazione. Sicuramente non è il sentimento migliore per difendere l'alloro che ti sei conquistato l'anno scorso sul campo. Bisogna fare qualcosa. Non credo sul mercato, visto che li hai spesi tutti facendo esattamente il mercato che voleva Conte. Esatto, però chiudiamo la prima parte tornando al Bologna di Bagnoli, Osvaldo, il Bologna di Osvaldo Bagnoli, l'uovo potrebbe essere, noi puntiamo allo scudetto, se devo cercarne uno più simile, viene fuori quello, che sta riportando, cioè ha una capacità di giocare sul turnover, cioè lui ha imparato il concetto del turnover applicandolo al massimo. Che uno da fuori può anche non capire, cioè ci sono a volte scelte che uno fa e quello che non ha visto la settimana non, beh, non Thiago, può pure, Thiago pure, Thiago pure, Thiago altro, il primo che col turnover ci andava pesante, sì sì, è anche a volte incomprensibile, molte volte incomprensibile, di più Motta, di più posso Motta, dire, di più, sì sì, ricordo un Ebischer alto a sinistra ancora lì che mi fa sanguinare un po' il cuore, no? Urbanski esterno destro, okay. Però Urbanski sapeva giocare a calcio, la differenza era quella. Sai, un po' quella la differenza. Almeno dici, quello qualcosina lo poteva fare. E comunque era fuori ruolo, assolutamente fuori ruolo. Questo invece li mette tutti a ruolo, nel suo ruolo, mettere ruolo, fa crescere in quel ruolo lì la capacità di incidere sulla squadra e fa rientrare persone che all'inizio sembravano un po' fuori dal progetto, o comunque un po' sotto, tipo Miranda. Le prime partite di Miranda erano, insomma, preoccupanti, no? Nel senso che sembrava avesse dimenticato più o meno tutto quello di buono che aveva fatto nella fine della stagione precedente. Invece Miranda è uno di quelli che bel giocatore, bel piede scuola spagnola, dai. Sta crescendo e anche ieri ha giocato bene. Altro terzino che in questo momento, ecco, su quello se sta così non, Zortea la vede poco, perché è Emil Holm. L'Emil Holm in forma fisica che è attuale, nelle ultime 5 diciamo, è clamoroso. È sì. Clamoroso, e quando è così, secondo me ce ne sono pochi in Italia, cioè, anche nelle altre squadre ne vedo pochi. Sostituire Posch con Holm, vedi dov'è bravo Sartori? Quando fa sti lavori qua, che li fa sempre, è ancora più bravo. Adesso Sartori, se vai a Napoli per cortesia e mi prendi il ragazzino, visto che Antonio Conte non ci sa fare con i ragazzi, se tu vai a Napoli e prendi Antonio Vergara, noi vi giuro che ci divertiamo tanto. Bene, questo è il nome che ci lancia il buon Simone per il futuro. Altri da sottolineare, Lewis Ferguson, che attualmente deve prendere prendersi un po' i compiti della squadra. Non c'è più Freuler, quindi il centrocampo, la chiave del gioco deve essere lui, deve fare quel salto di qualità. L'ha fatto in termini quantitativi, perché si è sbattuto alla Freuler, diciamo così, ha fatto un sacco di lavoro sporco, non si è fatto vedere nei guantoni di Milinkovic-Savic, ma ha fatto un sacco di lavoro sporco, sì, e ha coperto appunto quell'assenza che era uno di quelli che non cambiava mai, no? L'italiano cambiava sempre la formazione, cioè Freuler e gli altri 10, cioè giocano Freuler e altri 10, poi questa era l'unica certezza. Rowe, anche Rowe in crescita, qualcosa si è visto anche del ragazzo, in effetti quello è purtroppo sembra si sia un po' infortunato, si è infortunato durante la partita, ha provato a tenere duro probabilmente per arrivare alla fine del primo tempo, non perdere lo slot di cambi e cose del genere, poi appunto è entrato Cambiaghi, però nella prima parte insomma mi sembra stia iniziando a far vedere cose interessanti, come del resto soprattutto mi è piaciuto giovedì perché ne ha giocato di più, però anche Bernardeschi mi sembra tornato in forma, arrivato in forma, inizia a correre, questo per ora è il passaggio, inizia a correre alla velocità della squadra, ecco, diciamo così, in questo gli manca ancora la ciliegina. Vediamo, ti ripeto che se vai a Napoli e prendi il ragazzino, tu Bernardeschi lo puoi tranquillamente, ma non ce l'ho con Bernardeschi, ho detto solo che era una mossa molto strana dall'opus operandi, diversa dall'opus operandi del DS Sartori appunto. Ora, secondo me è un giocatore che alla fine non ti porta, non ti dà quel più che forse ti servirebbe se vuoi far bagare Scudetto. Poi io voglio sperare di sbagliarmi, che da qua a maggio Bernardeschi mette 10 volte all'incrocio dei pali, produce 7-8 assist, sono sicuro che andrà così. Vediamo. Io la vedo così, in questo momento è quello che può sostituire Odgar in quel ruolo lì, un po' meglio degli altri, se corre così, se è in forma piena. Allora, l'ultima cosa su Bernard, se c'è una cosa che è vera su Bernardeschi è che questo è un atleta clamoroso. Cioè a livello proprio fisico, gestione del fisico e infortuni, questo è uno degli atleti migliori che io abbia mai visto, posso dirlo? Perché non si fa mai male, sta sempre abbastanza aperto, garantisce tot numero di partite. Vediamo. Due parole sul Napoli, prestazione insufficiente direi di tutti, a me è piaciuto solo Gutierrez. Che è quello del Girona che volava, non so se vi ricordo, era all'esterno Mancino insieme a Savigno di quel magnifico Girona. Sul Napoli, non che sia particolarmente colpevole, ma io insisto, i gol pure che prende Milinkovic-Savic, perché ripeto, è stato fatto passare quasi, sembrava che a un certo punto magari fosse un povero disgraziato, ma però a Napoli, come dice Fio, c'è qualcosa che non va, è evidente che c'è qualcosa, perché non puoi produrre così poco. Cioè anche volendo, anche se ti impegni, non ce la fai a produrre così poco legati, così c'è qualcosa che non va nei meccanismi interni, vediamo se li risolvono. Bene, vedremo appunto nel tema. Tra l'altro, a proposito del tema di allenatori, può essere che Juric sia al capolinea con l'Atalanta. Lo voglio come punto in top 5 questa degli allenatori, perché dobbiamo parlarne bene. Bene, la top 5 fra poco, ora uno stacco e poi 333 180 94 94, torniamo con la top 5 in diretta. Ancora i trick and track della partita del Bran, erano rimasti gli ultimi scoppiettini, hanno non abbiamo fatto detto arrabbiare niente. Moltissimo la direzione, sì, veramente molto la direzione, l'abbiamo detto, la curva era completamente in sciopero perché gli era stato proibito tamburi, striscioni, bandiere, banchetto del merchandise. Ah guarda, a noi ci vietano proprio direttamente le trasferte, le presenze, quindi. Sì, sì, sì, sì. E così tra l'altro nelle trasferte non c'erano i napoletani di Napoli, residenti a Napoli. Direi posso dedicare tutte queste misure restrittive, che non condivido neanche un po', a quelli che fanno tanto i brillanti negli impianti sportivi, sono tanto fighi quando fanno gli ACAB negli impianti sportivi, poi votano ordine, disciplina e la MSI. È da vista bene perché siete dei bagagli, ma parliamo di altro. Non è in top 5. Non è in top 5, bagagli del genere non sono in top 5. E torniamo alla top 5. Da dove partiamo, Fio? Allora partiamo, facciamo una roba assolutamente originale, partiamo dalla vetta, perché di tutte le cose che non ti aspetteresti guardando la classifica della Serie A di calcio arrivati a questo punto, forse quella che meno di tutti ti aspetteresti è di trovare in cima una di quelle squadre che, sì, non è in cima da sola, è in cima in coabitazione, ma l'altra te l'aspetteresti, sicuramente non ti aspetteresti la Roma. Ma la cosa che non ti aspetteresti soprattutto è che la Roma ha la miglior difesa del campionato, la Roma di Gasperini, che è appena arrivato a Roma, cioè non è Gasperini lì che ha costruito il suo percorso virtuoso come Gasperini sappiamo sa fare, ma è al primo anno, è arrivato lì ed è primo con la miglior difesa. Cose strane. Assolutamente impensabile, soprattutto ragionando sul percorso di Gasperini a Bergamo, durato tanti anni, iniziato con una serie di sconfitte cocenti e in bilico fino a una sconfitta casalinga particolarmente sanguinosa contro una buona Lazio, poi da lì iniziò a ingranare e la media punti dell'Atalanta è diventata quella che, a cui ci siamo abituati negli ultimi anni. Sta capitalizzando il lavoro su lo spirito di gruppo e la fase difensiva costruito da Ranieri l'anno scorso. Esatto, aveva fatto quella, Ranieri è riuscito a fare una roba, essendo ancora in società, ancora c'ha quella situazione di tranquillità che a Roma non conosciamo. Non conoscono. Sono tranquilli in un luogo dove tutto è incasinatissimo. E quindi attenzione che questa Roma sembra fare sul serio. La vittoria stavolta è netta. Una buona vittoria contro una squadra strana che sappiamo che si veste malissimo, perché i designer devono capire che il grigio non va bene, non va bene. È l'Udinese quindi che affronterà il Bologna dopo la sosta, l'avversario del Bologna dopo la sosta, è una squadra che diciamo non sappiamo bene leggere, perché anche dei nomi ogni tanto arrivano dei nomi sconosciuti, cioè è proprio una squadra che sa fare ottime partite e anche dei nomi sconosciuti dell'Udinese. Quello che mi mette più in difficoltà loro è che molto spesso l'uso degli accenti, hanno dei cognomi, non sai dove cazzo mai lì è colpa anche dei telecronisti, vero, però li capisco un po', cioè un po' riesco a intuire. Che dire di questa Roma con Gasperini? Cioè, torniamo sempre allo stesso mantra. Io mi ricordo all'epoca dello scudetto di Capello che si diceva proprio questa Roma: per vincere a Roma ci vuole uno con un carattere un po', cioè, no? Tosto, che ha degli spigoli, il carattere meglio. Basta che non siano esagerati, sennò va a cozzare con tutto l'essere bene. Gasperini sembra che ci stia riuscendo. All'inizio sono tutte lì, 5 squadre, 3 punti. È ovvio che i risultati aiutano a stare a Roma, certo, in un certo modo, e quindi questo è bravo Gasperini anche a modellare questa squadra, che comunque ha ritrovato, ad esempio, il gol fatto da due difensori, quindi qualcosa di gasperiniano inizia a esserci, no? Assist di Mancini, gol di Selic, insomma, cose che avevamo visto all'Atalanta. Fa anche piacere vedere Pellegrini tornare a essere un giocatore di pallone in qualche modo, e soprattutto un giocatore normale, senza essere investito da poteri taumaturgici, senza essere né profeta né messia, un giocatore di calcio. Mi sembra fondamentale da qui ripartire. Esatto, se si parte dalla Roma, a questo punto in vetta c'è anche l'Inter, che gioca contro l'altra romana, contro la Lazio, e vince 2-0, buona vittoria contro la Lazio, che quest'anno insomma ha vari problemi. Difficilissima da leggere, la squadra di Serie A più difficile da interpretare quest'anno forse era Lazio. Alterna grandi partite, ritrova interpreti e poi torna a sprofondare lì dove l'avevi appoggiata un attimo. Sì, è clamorosa, non si riesce a leggere il lavoro di Sarri. Viene fuori molto poco, come se avesse 15-16 titolari nuovi, e invece no, sono quelli dell'anno scorso. Sì, quelli, perché non c'è stato il mercato. È vero che è stata colpita da infortuni vari, e i momenti del Cancellieri, che sembrava essere partito come in ottimo modo, si è fermato con infortuni, vari infortuni ci sono stati, con il mercato, insomma, quindi la squadra è anche un po' corta, per ora non ho sentito il senatore lamentarsi. Non ho sentito ultimamente il senatore Lotito. Mi ha chiamato. È in fila quindi... per il gelato alla buvette. Ah, ok, quindi non, in questo momento ho altre cose a cui pensare. Però, insomma, è ovvio che la Lazio in questo momento è nona con 15 punti. La classifica sotto, diciamo, le prime 5 lottano per lo scudetto. Poi ci sono le provinciali, Como, Sassuolo, Juve, Lazio. Quelle lì, le piccoline che puntano alla conference, no? Sono quelle lì che, questa è la classifica fatta così. Arrivare 8 comunque non è così, ma cioè arrivare 8. E, cosa dire, parliamo un po' dell'Inter, torna al gol su azione e bello Lautaro che sembrava un po' appannato, sì, ultimamente un po' arrabbiato con se stesso, un po' con tutti, era un po'... Beh, lui è sempre, mi è sempre sembrato uno che chiede tanto a se stesso, quindi quando non gira ci sta che si avveleni. Ieri è stata una bella occasione per ricordarci le sue qualità, sia non solo del gioco del pallone ma anche di solidità mentali, diciamo. E Bonny, acquisto azzeccato per il reparto offensivo, giocatore che si spende molto, che gioca tanto per il reparto, ogni tanto arriva il gol e ieri è arrivato quando il gol serve. Mi sta piacendo tanto quel Carlos Augusto lì. Te lo mettono un po' adesso ovunque, è per non quello è, che mi piace tanto, sempre esatto, lo stesso esatto ruolo. Sì, è interessante. Chivu, bei piedi, bella corsa, niente male. Chivu dimostra di essere comunque un allenatore quadrato. Sembra uno pronto di quei casi in cui il ruolo stesso che vai a coprire ti rinforza. Esatto. Rispetto a quello che dicevamo prima su Conte, lui sembra uno che quando è nello spogliatoio è un giocatore come i suoi giocatori. Il contrario di Antonio Conte, di cui parlavamo poco fa. Sì. Esattamente il contrario. Sta andando bene. Bravo, Cristian. Antonio Martinez è un po' triste perché non c'è più Correa, che fa quelle grigliate veramente. Ci sgardella un po' meno. Lo posso capire. Ci stato quello, il PCC lo posso capire. È l'unico, che, l'unico in tutto il gruppo Inter che ha sofferto un po' l'assenza di Correa. L'enogastronomia è molto importante anche nello sport tra professionisti. Certo, bravo, ha fatto gol e si è sbloccato. Ha fatto gol e si è sbloccato. Sapete che c'è una squadra dell'attuale Serie A che non vinceva una partita di Serie A dal 1991? Addirittura, sì, così tanto. Sì, non che sia sempre stata in Serie A. Però riportiamo il dato storico a questo. Okay. Sì, non è la Fiorentina. No, esatto, non è la Fiorentina. Non è la Fiorentina, è nemmeno Livorno. È comunque 4 punti sopra la Fiorentina. Esatto. 3 punti. Perché è riuscita a vincere una partita ed è incredibile, ma doveva succedere prima o poi. Peccato proprio contro la Cremonese, però. Peccato contro la Cremonese, che aveva quel percorso che sembrava esattamente quello dell'Leicester. Jamie Vardy ci ha fatto vedere come è bello segnare in Serie A quando segna Jamie Vardy, anche se il gol ininfluente contro la Juve è come se segnasse uno di noi. L'ha detto mio amico, mi piace moltissimo questa cosa, e me la rivendico di brutto. Il Pisa ha vinto una partita e l'ha vinta bene. Bravi loro. Bravi. Una squadra che giocava a calcio, oddio, noi l'abbiamo vista prendere un'imbarcata clamorosa al Dall'Ara, ma si vedeva che nel timore tattico di Gilardino comunque delle idee c'erano. C'è quel Tramoni lì che mi piace tanto, già in Serie B faceva bei numeri. Tramoni, diciamo, Serie B strepitosa, inizio di stagione molto complesso. È un altro livello, prende le misure. Va a portare il primo assist della stagione nel gol di Touré. Per gli amici pugliesi è proprio il suo cognome, non è una parolaccia. Sì, non è un epiteto. Si chiama proprio così, ok? Mi raccomando. È proprio così, quello è il suo nome. E comunque si fa vedere, finalmente il Pisa va a portare alla prima vittoria contro la Cremonese e inizia, insomma, a sperare qualcosa di meglio. In questo momento sarebbe salva, adesso, diciamo così, no? Sì, abbastanza incredibilmente, ma anche abbastanza credibilmente salva, perché è davanti al Parma, al Genoa, al Verona, alla Fiorentina. Alcune di queste squadre non hanno mai vinto una partita. Sì, ancora. E quello è una di quelle che sta cambiando l'allenatore. Ha giocato contro una squadra che ha appena cambiato allenatore, e quindi direi che un punto lo dedichiamo agli allenatori. Stiamo controllando, sembra che Palladino sia destinato a essere il nuovo allenatore dell'Atalanta. Adesso non è ancora perché ufficiale. L'Atalanta ha fatto un guaio, l'Atalanta ha vinto dominando, al Velodromo, uno degli stadi più difficili anche d'Europa, più belli quando fa quelle coreografie. Ah, ma è bellissimo il Velodromo, Bob Marley, sì, c'entra niente, non c'entra niente, però Marsiglia-Atalanta, cioè, va bene, so. Una dedica al popolo giamaicano colpito da un uragano. Ah, ok, sì, è successo quello. Questo penso che sia per quello, oltre che per lo spirito Rastafari, che comunque tangenzialmente non c'entra, però c'entra, è un po' ci beh, piace. Oddio, attenzione, con la Francia c'entra tantissimo, entreremo in un discorso geopolitico sportivo un po' troppo lungo e complicato, però c'entra. Vabbè, comunque l'Atalanta ti fa quella partita, ti porta via 3 punti con una grande prestazione in particolare di Samardžić e di Anaor, che sono i peggiori in campo nella sconfitta 3-0 casalinga col Sassuolo all'improvviso. Sì, cioè l'incoerenza totale dell'Atalanta di Juric è un punto affascinante. Anche Juric è un punto affascinante. Allora chiudiamo nel macro punto allenatori, perché Juric oggi c'è e domani chissà. Perché è affascinante? Perché lui, come tantissimi, soprattutto in Serie A, non si capisce come faccia a trovare ancora la panchina. Cioè, apriamo questo discorso, perché no, soprattutto in queste settimane c'è questo parallelo abbastanza impietoso nei nostri confronti tra la Serie A e gli altri campionati. Cioè, da noi si segna oggettivamente poco, si tende a essere sempre abbastanza coperti, poi uno guarda la Liga, guarda anche la Liga An, senza arrivare necessariamente alla Premier League, insomma, vediamo tutt'altra cosa, vediamo anche degli strafaccioni giganteschi, però vediamo altre cose. Però se continuiamo a letteralmente regalare panchine senza senso, senza meritocrazia, perché poi gli allenatori italiani bravi ci sono, ma non stanno qui, però, perché Tedesco allena il Belgio, Farioli è primo in Portogallo col Porto, De Zerbi se la sta giocando e si gioca la Liga, adesso è secondo a 2 punti contro il campione d'Europa in carica. Maresca mi risulta essere l'allenatore della squadra campione del mondo in carica. Dico una cazzata, no. Cioè, è la Coppa del Mondo che è un po'. Però tu voglio dire, gli allenatori italiani alla fine bravi, ci stanno. Ce ne sono tanti. Giovani, in Serie C, giovani, promettenti tanti. Io mi ricordo anche Alvini stesso, è dovuto finire alla Spezia. Ma è l'allenatore che salvava la Cremonese 2 anni fa se la Cremonese non avesse scambiato Dessers per un giocatore di calcio. Okay. Il capocannoniere della Conference League, ricordiamo. E invece noi continuiamo a regalare. Spalletti ci regala la più brutta nazionale italiana degli ultimi 50 anni, tra le più brutte. Qual è il premio di Spalletti? 8 mesi di contratto con la Juventus. Ancelotti presenta il peggiore Real Madrid degli ultimi 20 anni. Qual è il premio per Ancelotti? Il Brasile. Mi spiego, cioè qua continuiamo a richiamare gente che è ferma, Pioli. Quando, lunedì scorso abbiamo fatto le battute, ma se tu prendi l'allenatore che è stato cacciato dalla rabbia, come credi possa finire? Se tu prendi Juric, come credi possa finire? Con 2 esoneri, infatti, nel giro di 48 ore. E affascinante. C'è però qualcosa che non va nella metodologia della scelta, o c'è una cricca, o c'è un gioco di potere, adesso non vorrei dire cazzate. Però c'è sicuramente una questione di capitalismo di relazione. Bravo. Che è intrinsecamente mafioso, che è la dinamica per cui l'anno scorso il Milan ha sostituito un allenatore portoghese scarso con un altro allenatore portoghese ancora più scarso dello stesso procuratore. Bravo. Che è clamorosa, ragazzi. Sei il Milan, tra l'altro, non sei l'ultimo arrivato, il presidente della Longobarda che fa la Serie A per sghetto e va a cercare Gigi Andrea in Brasile. No, non sai quella storia lì. Però dobbiamo segnalare, forse per invertire vagamente la tendenza, che 2 squadre hanno pescato tra gli svincolati i 2 migliori svincolati che c'erano, perché va alla Fiorentina Vanoli ed è andato al Genoa De Rossi. Io per la Fiorentina anche avrei sperato se dovesse andare a Bergamo, insomma. Se c'è dovesse, Giacomo Motta ancora dovesse, libero, sì. Ripeto, cioè quelli bravi non so fuori, o vanno fuori o io per la Fiorentina avrei sperato un Nesta, che secondo me è anche peggio del D'Aversa che si era paventato. Giacomo Motta ha detto che sta benissimo così, pagato ancora per 2 anni dalla Juve, bella vita. Cannavaro bella vita. Purtroppo è fuori dai giochi perché sta derubando l'Uzbekistan prendendo un sacco di soldi, tra l'altro un contratto clamoroso. La questione allenatori è affascinante, l'Uzbekistan. ma c'è qualcosa che non va. Ripeto, gli allenatori bravi anche in Serie C ne vedo tante di squadre messe in campo da Dio, cioè voglio dire. E quindi bisogna che per crescere un po' tutto il movimento, bisogna che l'allenatore Gianni Chedda, l'allenatore della rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti, fa un lavoro strepitoso. Tutti gli allenatori delle nostre under fanno dei lavori strepitosi. Cioè, vuoi dire, come per i giocatori, la materia noi ce l'abbiamo, è che non so per quale motivo non. boh, non la sappiamo trattare. E invece, se possiamo dire, per chiudere la top 5 con una parte di ottimismo per il movimento del calcio italiano, direi che possiamo chiudere col fatto che ci siano almeno tanti portieri italiani forti. Bravo Mingo, allora, bravo Mingo, io bravo Mingo. L'abbiamo già bravo detto Mingo. Da questi microfoni altre volte, ma ragazzi, la parata della settimana la fa nel derby a Torino Pareari, che è uno che ha 33 anni, la sua massima, il suo massimo exploit prima di questa stagione nel calcio che conta è stato le Universiadi. Ed è il salto è grosso. E non ha 17 anni. Cioè, 33. Ne ha 33. Questo per parlare del livello dei portieri, perché anche questo incide molto sul fatto che il campionato italiano sia meno spettacoloso rispetto a quelli stranieri, perché guarda che adesso ragazzi sono delle porcherie grosse, sono delle porcherie grosse. Ma anche Di Gregorio fa una parata della Madonna su Simone. Anche qui Gatti ti fa capire, è l'esempio, si ricollega al discorso allenatori. No, questo è un giocatore che non può avere, non può stare in Serie A. Cioè non c'ha proprio i basilari tecnico-tattici per stare in Serie A. Non ha idea di come muoversi quando il suo compagno è troppo lontano, è storto, non si sa coordinare, è solo grosso. Prende un tunnel micidiale. No, ma su. No, ma il tunnel, ok. Sulla paratona sì. Di Gregorio c'è Adams, va via. Ma no, ma perché... cioè, non sa proprio che fare, io non ce l'ho con lui, Però non può uno così arrivare in nazionale. A livello di difensori, forse l'Italia ti fa è un capire po' meno, com'è. Ti fa è un po' meno forte. Un'altra grande tornando ai portieri che comunque giocano anche all'estero, Donnarumma ovviamente è il caso, Vicario, insomma sta giocando bene e facendo grandi Caprile partite. In nazionale. Caprile fa una grandissima partita nello 0-0 tra Cagliari e Como. E anche Montipò. Anche molti Poff, dai, non fare così, bravo, convinto, bravo, convinto. È vero. Puoi dire. Bravo. Pareggio 0-0 a Lecce. Vediamo bravo, quanti gol dire. Prende quest'anno, un po', però comunque punto bonus fortemente voluto da Simone Manoni. Come mai hai voluto inserire questo? È scritto in scaletta mia mamma. Allora, non lo faccio mai. La mamma di Simone Manoni. Dico proprio mia mamma, la signora Rita, che voglio ringraziare pubblicamente perché mi ha mandato su tramite una persona che è venuta a Bologna a trovarci. Una bella porzione di trippa di rospo con tanto di peperoncino, quindi grazie mamma. Okay. La mangiamo per questa estate. L'enogastronomia è molto importante. Siamo un programma Nico, sportivo. Tu l'hai provata, sai di cosa parlo. Siamo un programma sportivo molto italiano. La mamma e il mangiare bene. Grazie mamma. Sempre con noi. Sempre con noi. E questo è quello che è la top 5 di quest'oggi, ormai siamo... Col peperoncino poi, capito? C'era il peperoncino, giusto. Il peperoncino non troppo forte. No, fresco. Okay. La trippa di rospo è una cosa che non si trova... Di coda, insomma, di rana pescatrice. L'ho mangiata pescatrice. Solo sulla costa est. Si immagina una fascia chilometrica di 6-7 km, non di più. Penso ad Alba Adriatica. Fino a noi, ad Alba Adriatica, può essere. Ad Alba Adriatica, Martin Sicuro, San Benedetto, fine. Clamoroso. Bene. E quindi a questo punto, che anticipa troppo la chiusura della top 5, è la prima volta che con questo jolly arriviamo proprio alla chiusura della top 5, siamo pronti per guardare, diamo un'occhiata giusto alla che abbiamo tempo per guardare un attimo la classifica, la parte bassa, ne abbiamo parlata poco, la Fiorentina appunto 5 punti, 0 vittorie. Anche il Verona non ha ancora vinto. Bella però Genoa Fiorentina, attenzione, pensavo molto bene, sì, invece sì. È una bella partita. Genoa Fiorentina. Sì, Genoa sì. Ha 7 punti davanti, sta provando. Genoa giocava bene anche con Milano. Esatto, cioè non merita la carica. Nemmeno Vieira. Davanti fai troppa fatica. Sul Parma, velocissimamente un secondo. Gran bella maglia vintage anni 90. Bravi. Almeno una maglietta positiva. Bravi. Comunque fai quella partita là. Menzione in top 5, oltre alla tua mamma e la trippa di Rospo. Per Bricchi che esordisce in Serie A contro il Bologna, prende una traversa sull'1-1 sul campo, sul Tardini non ancora pesantissimo, fa una partita clamorosa contro il Milan, fa 2 assist, il primo per il bellissimo gol di Bernabé e il secondo per il definitivo 2-2 di Del Prato. E Lucerna giovanili, Lucerna prima squadra, Parma Serie A, esordisce due settimane fa, prodotto di Mario Frick, che è l'allenatore. Quel Mario Frick, quello ragazzi, lì, quello proprio lì. Quel Mario Frick. Pensa a questo ultima chicca. Va bene, uno stacco e poi ci buttiamo nel calcio internazionale. Rientriamo in diretta, quindi stiamo seguendo aggiornamenti ovviamente del mondo del football, del pallone, del calcio internazionale. Sento la base, quindi questo mi porta a parlare del calcio internazionale. Volevo dirti, Simone, so che non ami la Premier League, l'ultimo 0-0 in Premier League è datato 29 settembre. Giusto così, te lo dico. Di una bella canzone. Poi. Se quel caffè, io non pensavo a te, non vi meritavate. 0-0. Sì, però. Quella lì, quel giorno lì c'è stato uno 0-0 in Premier League. Ripeto, non è tutto oro quello che lui no, cioè, ci dovete dare sì, un'occhiata. Però anche 0-0, cioè, è stato un sabato che fino a Parma-Milan non c'era stato. Mamma mia, che desolazione. 0 no, che desolazione. Il sabato pomeriggio, 3-0 in fila, dopo l'1-0 la sera del venerdì. Questo è... 5-3-2 a palla e via, e via. E poi ci sono buoni portieri. Ottimo, aiuta ovviamente a fare degli 0-0, questo è vero, non lo possiamo negare. Notizia copertina della Premier League, l'Utopia Gunner si tinge di una nuova pagina di utopia. Ah sì, beh, c'è perché sempre. Comunque eri molto molto bello lì davanti e decidi che invece va bene anche riprenderla al 94esimo, va bene se c'è il Sunderland, cioè l'Arsenal si fa rimontare dal Sunderland. Sì, il Sunderland pareggia al 94esimo. La cosa più utopia Gunners di tutti è che l'arbitro dà gol, poi c'è il reclamo dei VAR. Tendenzialmente quando l'arbitro ha dato gol e c'è il tiro del VAR, quasi sempre una gabola si trova, trovi una gabbetta fuori di posto così. E invece no, l'arbitro conferma il gol, quindi comunque bravo l'arbitro, il pareggio arriva il pareggio comunque del Sunderland appunto, e quindi si ferma la corsa dell'Arsenal, che fino aveva inanellato una serie di vittorie consecutive importanti e si riavvicina, attenzione, il Manchester City, che all'inizio non era così brillante, però insomma mi sembra abbia intrapreso la strada giusta. In quello che era il big match della Premier League fino a poco fa, schianta 3-0 il Liverpool. Invece il Liverpool dimostra che il gioco del calcio non è fatto di solo soldi e investimenti. 500 milioni hanno speso. Milionari. 500 milioni. 500 milioni e sono peggiorati rispetto all'anno scorso. Quindi insomma questo investimento non è per ora andato molto bene. Haaland bolla, se ve lo stavate chiedendo, sì, bolla, sbaglia anche un rigore, no. Si toglie anche questa soddisfazione. Patatone. Il Liverpool addirittura è sotto il Manchester United. Che comunque... invece a ridere per davvero. Lo United pareggia perché ormai l'obiettivo di mandare dal barbiere quel ragazzo era perso. È andata. Quindi è inutile provare da qui 5 vittorie, non le può fare, non ancora, quindi ripareggia. Comunque io ritratterei, farei 3 su 3, dai. No, tre, perché sennò poi non arrivano neanche a 3 per non mandarti al barbiere, diventa un casino. Dopo retrocedere. Va bene 5, va bene 5. Rimane 5. Comunque il Manchester United appunto è settimo insieme al Liverpool, dai, è pari al Liverpool. Fa 2-2 in casa del Tottenham, segna allo scadere con l'esotica maglia red dei Reds, una vecchia conoscenza del calcio italiano. Ve lo ricordate quando era fortissimo De Ligt? È vero, lo ricordo. Lì, fece un gran gol contro di testa lì, sul primo palo. Quando era famoso, fece quel gran gol di testa contro la Juve e poi andò alla Juve. E poi andò alla Juve, poi andò al Bayern Monaco, e adesso fa 2-3 anni. Un percorso clamoroso e sempre strapagato, ma ogni volta pagato un po' meno. Un po' meno, sì. Non è... 85, 67, 45. E così andava. È un segnale un po' del fatto che insomma poteva forse dare di più, o sembrava. Poteva dare di più, ha sbagliato la sliding door. Lo sliding door per lui è stato sbagliato. Non doveva andare probabilmente alla Juve. Sì, in quel sistema di Giacolino, me lo ricordo queste difficoltà. Vediamo, ora è rimasto un buon difensore, vediamo. È ancora giovane, anche perché ha cominciato che era ragazzino. Quindi. Sì, era molto giovane. Era molto giovane, vediamo. Per il reparto inguaiati segnaliamo che tornano alla vittoria dopo. Perché era, scusa, era il periodo che la Juve comprava i giocatori che gli avevano segnato l'anno prima in Europa. Sì, ci hanno provato anche con Wolfsburg, ma non ce l'hanno fatta. Poi con Ronaldo, insomma, insomma, e vari, l'avevo fatto con alcuni anche di lì. Probabilmente per lui non è stato il momento giusto per arrivare. Anche Kim livello del Napoli, no? Che rivenduto, sembrava dovesse spaccare montagne, si è trovato male anche lui al Bayern Monaco, questo dovrebbe essere. Non so se rientra nei piani di Company, vabbè, vediamo, vediamo, quello è. Torna alla vittoria nelle parti bassissime della classifica sia i Garibaldi Reds, We Were It Proud, Nottingham Forest, che vince 3-1 contro il Leeds, vince 3-2 contro il Burnley, anche il West Ham, ed entrambe erano molto molto inguaiate là dietro. Inguaiate sì, ma non ultime, perché ultima era e rimane il fanalino di coda d'Europa, il Wolverhampton, i Wolves. Due punti, cioè, non hanno avuto punti per realizzazione, credo. Due punti. Meritati, cioè, peggio della Fiorentina. Sì, peggio della Fiorentina. Prendono tre gnocchi dal Chelsea, così, senza colpo ferire. Peggio della Fiorentina, invece sotto, vabbè, dopo si deve lottare, perché 9 punti il Nottingham, 10 il West Ham, che non è partito particolarmente bene, e il Burnley a 10 punti, e poi a 11, insomma, ce ne sono altre squadre che sono in lotta. Vedo nelle parti basse, un po' a sorpresa, il Newcastle, che era qualche anno fa lo spauracchio di tutto il calcio mondiale. Sì, era anche loro investimenti miliardari. Next big thing, come dicono da quelle parti. Una roba simile al Paris Saint-Germain, diciamo così. Invece è 14esimo in questo momento in campionato, non è partito bene per niente. Cambiamo campionato? Andiamo a vedere la Bundesliga, dove parlavi prima di Bundesliga? Subito, prima ancora di parlare di calcio della Bundesliga. Cose interessanti, eh? Andiamo, allora, è perché il discorso su cui torniamo spesso, la superiorità estetica del Last Goodbye tra Adidas e Germania è qualcosa di grosso. Perché Germania insieme all'Adidas presenta il completo per il Mondiale 2026 ed è una botta. Non so se l'avete vista, ma è una botta. È un tributo ben fatto alla maglia, una delle Italia maglie 90, più belle, una delle maglie più iconiche della storia del calcio, e entrano nell'ultimo anno di contratto Adidas e Germania dopo 50 anni e ci entrano con un prodotto clamoroso. Si fa così il completino di una squadra, si fa così, in questa maniera. Tutti bravi così. Bello. Bene, hai fatto bene a sottolineare, perché calcio giocato, vi viene in mente una squadra più sprecona nella sua storia del Borussia Dortmund? No. Paolo, non ci ho dovuto neanche pensare. No. Beh, veramente, potevo formulare la domanda meglio, quindi, qual è la squadra più sprecona che viene? Il Borussia Comunque Dortmund. Comunque sia loro. Il Borussia Dortmund domina proprio in modo selvatico la partita ad Amburgo, sul campo dell'Amburgo, e fa un punticino e basta, perché si fa riprendere al 97esimo. Mamma mia, ragazzi. Una partita con statistiche veramente imbarazzanti, eppure è andata così. Questo punto è d'oro per l'Amburgo tra le mura amiche. La sorpresa, diciamo così, è che finalmente il Bayern non vince. Vero, la sorpresa è un po' quella, ed è una squadra che a noi sta sempre stata simpatica, l'Union Berlino, che ferma sul 2-2 la corazzata, anzi rischiava di vincerla, perché con una squadra normale, tra l'altro con una squadra assolutamente normale, la rischiava anche di vincere, perché Kane, non so se lo conoscete, uno che ogni tanto gol lo fa, al 92esimo pareggia, racciuffa la partita, se no sarebbe stata una grande vittoria, ma la squadra normale, ma una grande vittoria. Ma c'è una nomination pesantissima per il Puskas Award 2025-2026, perché Luis Diaz fa un gol di quelli che ti fa lasciare il campo, dici ok, adesso da questo me ne vado, saluto. Non so se l'avete visto, recupera il pallone in scivolata, dribbla l'avversario mentre è ancora per terra e poi la spara all'incrocio da posizioni clamoroso. Gol veramente clamoroso, bravo lui, giocatore completamente pazzo, ma davvero bravo. Segnalato, ho glissato sulla giornata di Colonia, che hanno perso 3-1 il derby, e quindi possiamo saltare. Noi insomma neopromossi, non è che puntavamo a posizione, eravamo in alto, ma per sbaglio nelle prime giornate. Segnaliamo il non come il Bologna invece, che lotta bravo amico. Segnaliamo anche il tennistico 6-0 del Leverkusen in casa contro l'Heidenheim. Tra i vari misteri del calcio italiano c'è Patrick Schick, che comunque in Germania è fortissimo. No, oddio, era buono anche qui. Era buono, ma non si capiva. Poi andarono male le visite mediche con la Juve, tutta una situazione strana, però che il giocatore fosse buono. era abbastanza evidente. Ne fa due nel dubbio, ne fa due. Ne fa due nel dubbio. Bene, questo è. Cambiamo campionato, andiamo a vedere la Liga cosa ha regalato. Qualcosa ce l'ha regalato anche la Liga. Un'altra nomination per il Puskas Award, questa volta arriva dalla Liga e soprattutto arriva finalmente dai Paesi Baschi. Oh. Perché Nico Williams fa un gol clamoroso che sa molto di Alessandro Del Piero Prime. Oh, posso dirlo, sa e se moltissimo. Simone dice Del Piero vuol dire qualcosa. Sa molto perché passa in mezzo ai due avversari, tipo il gol di Del Piero a Roma contro la Lazio 19 anni, quindi la stessa età insomma, di Nico Williams. Poi fa un doppio passo, arriva sul sinistro e la spara tutta adesso. Il gol è veramente fantastico. Quindi l'Atletic Raga riesce a vincere. Contro l'Oviedo. 1-0. Buono anche il pareggio del Rayo Vallecano contro Real Madrid. Molto buono, immagino. Molto bene. Molto mamma bene. Mia, tanta roba, tanta molto roba. Bene. Molto bene. Insomma, come Juventus Torino assomiglia un po' somiglia molto come, Juventus Torino sì. Come sentimento ed è 0-0 come lo stesso risultato grande divisa del Reale però blu col vecchio stemmino del trifoglio Adidas è bella molto bella la battuta del, di arresto accorcia a 3 i punti di distanza tra il Real e il Barça che vince a Vigo vince 4-2 tra l'altro insomma continua anche a prendere gol strani. Ma lasciamo perdere. A farsi espellere dei giocatori per nervosismi abbastanza ingiustificati. Anche. Comunque triplete di Lewandowski, che ogni tanto ce lo dimentichiamo, ha 37 anni. È ancora lì che segna. La minima male non diciamo gioca che... tanto, ma quando gioca segna. Segna sempre. Segnalo anche che tra Coppa e Campionato la minima male sta cercando di mettere a tacere le voci sulla sua pubalgia legata all'aver trovato un'amorosa. Esatto, sì, mi sembra di ogni tanto la butta con la può anche lui ogni tanto bolla. E che gol che fa poi. A proposito della Spagna, a proposito di Bilbao, segnatevi il nome del 18enne Selton Sanchez. Centrocampista molto normolino, davvero magrino, ma quando gioca, Mingo, lo devi vedere. Di un'eleganza, di una leggerezza, due piedi fatati. Selton Sanchez, ragazzi. Bene, segniamo sicuramente. Andiamo al nostro campionato preferito, andiamo al Belgio, perché abbiamo dei racconti anche lì. Raga, ieri... qua state concentrati, state concentrati. Ieri in compagnia di ragazzi dei Forever Ultra ho incontrato in Pratello, al Mutenie, questa balotta rumorosissima di francofoni affascinante in queste movenze casual, diciamo. Ho avuto il piacere di conoscere, fare balotta, parlare un po' di varie ed eventuali con dei tifosi dello Standard. Ma di mi devi dire grande. Hellside, un gruppo di estetica, direi hooligan. Belli scomodi. Abbiamo parlato tra le altre cose anche del percorso societario dello Standard Liegi che è stato preso dal fondo 777 che è quello del Genoa. Quindi c'è una roadmap di ritorno ai piani alti. E intanto, siccome il campionato belga è fatto così, lo Standard giocava contro il St. Truiden e ha perso. Però alle Standard. E purtroppo ha perso. Però rimane lì, non ti preoccupare. In mezzo. Anche loro, hai chiesto se anche loro puntano comunque sempre alla conference zone. Allora, magari non gli dispiacerebbe arrivare sesti ogni tanto, però va bene rimanere nel posto in cui succedono le cose, così ne giochi di più. Che da un punto di vista del tifoso rumoroso è bello. È bello, è certo, molto bello. Sì, perché c'hai la possibilità di giocare uno spareggio, cioè in realtà ne giochi di più perché facendo tutto il girone uguale a 6, come quelli per lo scudetto, dopo tu hai la possibilità di giocarti lo spareggio con la quinta della. Siccome allora mi piaceva Balotta, una partita in più è sempre bello. Tra l'altro le trasferte in Belgio non sono. Quanti chilometri? No, si gira abbastanza facile. Quei chilometri là si fanno. La trasferta più grossa sarà 500 chilometri. Mi sembrano un po' tanti. A meno. Sì, meno. Cioè, dico dal punto. Cioccolata calda, patatine, insomma, deve essere birre buone. Non deve essere male. In vetta la classifica rimane Royal Union Saint-Gilloise, spazzolato dall'Inter in Champions, con 33 punti. Ne ha 29 il Club Rouge, 25 l'Anderlecht. Il St. Truiden che ha battuto abbiamo cantato molto contro l'Anderlecht abbiamo cantato contro l'Anderlecht e anche contro lo Charleroi, le zebre sì? Di Charleroi. Charleroi, bene, adesso li seguiremo. Charleroi sono tra l'altro proprio un gradino sopra, brutta storia, è proprio lì, hanno un punto in più, quindi seguiremo ancora di più. Il Mechelen zitto zitto 4-4 pareggia, non strafa contro il Royal Union Saint-Gilloise, contro la capolista, ferma un po' la capolista, rimane al sesto posto, sta lì che può farti giocare qualcosa. Voi fate la balotta che non arriviamo. Okay. Allora segnaliamo per gli amanti proprio delle cose belle e curiose che il Dendere, che aveva segnato in 13 partite 6 gol, ne fa 2 in una partita e non la vince. Ma come? Pareggia 2-2, pareggia 2-2. C'è un problema difensivo, ne ha già presi 23 mi sembra, sì. 8 gol fatti, 23 subiti e ha 5 punti. Come la Fiorentina. Pareggione 2-2 con lo Zulte Vargem. Quando il Mingone dice Zulte Vargem, si ferma il mondo. Si ferma il mondo, quindi è giusto ricordarlo ogni tanto. Abbiamo parlato bene dell'Arts of Midlothian nella scorsa settimana. Arts of Midlothian. Esatto, che erano in vetta alla classifica e provavano a rompere il dominio di Glasgow che dura da 40 anni. Duopolio 40 anni. Uno dei due e ovviamente appena abbiamo parlato bene, ha pareggiato 1-1 contro il Dundee United, altro nome glorioso. Ricordo, certo, contro la Roma di Falcao, altro nome. Dei campioni in quell'anno in cui poi persero la finale ai rigori in casa, clamoroso. Famosa rigore, finale ai rigori, perdono, cioè pareggiano e quindi insomma iniziano a perdere qualche punto perché il Celtic nel frattempo vince 4-0 col Kilmarnock. Per quanto riguarda i Rangers sono un po' più indietro in classifica, quindi la vera sfida sarà tra Hearts e Celtic. 7 punti, una partita in meno per il Celtic. Ah, ok, quindi insomma ancora 4 punti, insomma, quindi, insomma ne abbiamo parlato in questo caso un filo presto, però insomma, puntiamo comunque alla buona stagione del Hearts of Midlothian. Abbiamo terminato i campionati? Paris Saint-Germain ha vinto? Ha vinto al 93esimo. È vero, hai ragione, contro l'OL se non mi sbaglio. Con Lione, è vero, il campionato rimane bello lo stesso. Molto bello. Ne abbiamo parlato in un altro periodo di questa, questa chiusura al campionato francese, perché ci sono cose interessanti. Lo Strasburgo, ne abbiamo parlato, uno dei progetti più giovani presenti nei top mondiali. Sì, forse il mondo. Panichelli che io volevo al Bologna. Paris Saint-Germain che vince 3-2 la sfida appunto in notturna e ha 2 punti di vantaggio sul Marsiglia. È lì. Campionato assolutamente aperto. Marsiglia vince 3-0 contro il Brest, quindi si riprende dopo la scoppola presa da Samardzic, soprattutto. Samardzic, comunque posso dire una cosa, se fai quel gol lì è giusto un minimo, cioè, ma lui ha fatto come classe, come se fosse in realtà. Ho fatto questo gol qui, ma sai, per me è normale, io faccio di cognome che finisce con Icci, quindi posso dire che c'era un Mani di Ederson a inizio, lui pensava che dopo revisione quel gol sarebbe stato annullato, secondo me potrebbe essere. Prima di lasciare il calcio internazionale è stata a seguire i ragazzini under 17 mondiali? Non ancora, non però ancora. Adesso siamo so che lo farò. Adesso sono ai 16esimi di finale, siamo passati, però non erano difficilissimi gli avversari, però ci vuole che cominciamo a ricordarci tutti di Ignacio Samuel, che ha 17 anni, gioca nel Borussia Dortmund ed è italiano, ed è un bel... non si capisce se è trequartista, seconda punta, è troppo giovane ancora per voi, però segnatevi quest'altro nome, Ignacio Samuel insieme ad Arena. La prossima puntata ne parleremo meglio. Allora a questo punto, prima di passare lo spazio musicale, andiamo a vedere cosa è successo in Serie C. Ho seguito anche Campobasso San Benedettese, sfida che avevamo forse visto già in Serie D. Sì. Loro hanno vinto il campionato l'anno prima di noi, e mi ricordo l'avevi visto anche live a Riviera con Manuel Esposito, dove avevano imposto al ragazzino fortissimo. E è una squadra che comincia con cui, cioè, non ti dico che sta sviluppando amicizia, però cioè, ci si rincontra spesso, ok? Venivamo da due brutti periodi entrambi, no? L'ultimo mese oggettivamente disastroso, perché solo sconfitte. È il classico pareggio che ti muove la classifica, che tampona l'emorragia, però dobbiamo mangiare ancora tanto pane. Sì, vediamo. È vero, però ciò c'è da recriminare. Ho seguito la partita. Il gol che hanno dato al Campobasso, e secondo me era clamoroso fuori gioco. Lì c'è la possibilità di rivedere esatto la situazione, però non è un fatto di telecamere, questo giocatore del Campobasso corre verso la palla ed è clamorosamente in fuorigioco. Poi si ferma e fa passare un altro che non era in fuorigioco. Ho capito, ma ha fatto una corsa come se... cioè non è che sia disinteressato, era in fuorigioco. Capita, no? Uno certo, si gira certo, proprio certo, di schiena, certo, va via, esatto. Non lo vedi? Non ci sono, quindi non, questo invece scatta verso la palla come se il pallone, il passaggio fosse giocabile. Non se ne occupa perché si ferma. Capisce che sta arrivando un altro che non era in fuorigioco, mi viene da pensare, lo lascia passare, però la difesa è stata mossa esatto, in quel modo lì. Manipoli comunque i movimenti della difesa avversaria. Quello che secondo me non può non essere attivo, perché ma corri verso la la tua superiorità a volte esce fuori anche questo. Devi vedere il gol che ci hanno annullato contro il Ravenna, lasciamo perdere. Segnaliamo a proposito salutiamo gli amici che vince il Ravenna, amici tuoi, capito? Vince il Ravenna 3-0, ma non vincono Arezzo e Ascoli. Attenzione, quindi là davanti c'è un punto di vantaggio e diventa capolista Sud Italia per la prima volta quest'anno proprio a spese dell'Arezzo il Ravenna, un po' più staccato a meno 5 dalla vetta l'Ascoli. L'Ascoli si stacca, sta cominciando a rallentare finalmente, un tabellino mostruoso perché ha subito 4 gol in 13 partite, assolutamente sì, una sola sconfitta in Coppa Italia. Giusto per ricordarlo, contro chi? La Samp Lentese. A proposito, ringraziamo noi perché il ragazzino Marranzino la pareggia su punizione allo scadere davanti proprio ai 400 circa ragazzi che sono andati a Campobasso, quindi va bene, ma dobbiamo lavorare. Dai ragazzi, dai ragazzi. E a questo punto abbiamo terminato, non ci sono le coppe, c'è l'Italia è abbastanza inutile nel senso. Sì, complimenti ad Adidas che fa dei capolavori di maglie per Germania, per Argentina, per Messico e per noi fa il compitino, cioè proprio lasciamo perdere. Beh, lo segnaliamo. Siamo bene. Mai l'Adidas volesse darci dei soldi a noi. Lo segnaliamo, non li prendiamo. No, anche perché danno per scontato che quella è la maglia dei mondiali, ma tu ti devi qualificare. Oh, aiuto. Vabbè, ne parleremo. Oh, adesso parliamo di motori in questo blocco di Caffè Paglia con il nostro esperto di motori. Eccolo. Brum, brum, brum. I motori scoppiettano. Due microfoni. Abbiamo. L'articolo di moderni. Riferimento della Gazzetta inizia con weekend da sogno da per. Da sogno. Weekend da sogno per. Lando Norris. Non per le Ferrari, infatti. No, parliamo subito. Cioè, ascoltatori, se avete dei dubbi su come sia andato il Gran Premio del Brasile, toglietevi subito. Certo, perché come sappiamo. Ma è storia, no? Le cose si ripetono. Cioè, devo dire che comunque nella sprint c'era qualche aspettativa in più, no? E sicuramente possiamo dirlo, Leclerc è stato sfortunato. Adesso, al di là che si lamenti, che dice che Andrea Antonelli, che si chiama così, Kimi è una cosa che gli hanno aggiunto, cosa poteva fare? Cioè. E quindi alla ripartenza da una safety car praticamente come dicono i cronisti televisivi tutte le auto si sono aperte a ventaglio, no? Tutti a buttarsi verso la prima curva e Piastri che è un po' incazzato perché secondo me fino a poco tempo fa era in testa alla classifica dei piloti, era un passo volendo dalla conquista del titolo piloti, anche se io ho sempre pensato che in McLaren non puntavano su di lui ma puntavano su quello che era appunto il Lando Norris, perché comunque c'è sempre un favorito, c'è sempre un preferito per diversi motivi, non solo per simpatie o amicizie, quindi diciamo Piastri ci ha provato a fare la manovra per passare davanti a tutto, si è trovato stretto in curva, ha tirato un'inchiodata per non complicare le cose, quelle cose che faceva anche Verstappen un po' di tempo fa, non so cosa ne pensi te Fio, perché qua stanno, infatti gli hanno dato 10 secondi di penalità a Piastri per questa manovra, ma secondo me è stato un incidente di gara, cioè qua non si può più far niente, quindi Piastri si infila, prova a infilare Antonelli, c'è uno scontro tra i due delle sgommate, colpi di gomma, e Antonelli viene sbattuto all'esterno della curva e prende contro la macchina di Leclerc che era alla sua destra. Questo diciamo incidente fa sì che addirittura salta via la ruota. Cioè, mentre la Mercedes, sappiamo che i tedeschi fanno delle macchine che sono dei carri armati, quindi anche la Mercedes anche ha preso un cuccio da piastri e poi, diciamo, cioè, nel senso, ha preso un cuccio la Mercedes ha preso un cuccio da piastri e poi ha tolto una ruota la Mercedes alla Ferrari. E la Mercedes è arrivata seconda. Cioè, questo la Mercedes di Antonelli, quindi è una gran robustezza, quindi me lo dicevano sempre i miei colleghi della Weber, fanno dei carri armati loro, le sono macchine abituati ai carri armati. Fanno delle cose pesanti che durano, con delle lamiere più grosse, insomma questo era un po' la favola della Mercedes, e quindi questo è stato, diciamo, il patatrack. Poi c'è stato quello di dell'altro 7 volte campione del mondo, lo ricordiamo, Hamilton, che anche lì è arrivato, ha avuto anche lì uno scontro e poi ha tamponato, ha rotto il musetto, è stato penalizzato, è rimasto in pista con la macchina tutta sgangherata, perché come abbiamo detto la Ferrari non è tedesca, e per cercare poi di smaltire quei 10 secondi, no? Anche Hamilton li ha avuti 10, non mi ricordo, comunque, perché sennò se li portava nella gara successiva. Il grande protagonista, come sempre, è Max Verstappen, che è stato opaco nella sprint, dove ci sono state una serie di incidenti, adesso addirittura sono stati tanti di quegli incidenti che non ci ricordiamo neanche più chi li ha fatti. Beh, i più brutti ne fa due, perché fa la sprint e nella lunga Bortoleto fa dei ciocchi clamorosi, non si fa male, ma... Sì, molto brutti. Molto brutto quello, 2 ciocchi nella sprint, mi sembra, che è una gara più corta, ma perché c'era poi la pista un po' bagnata, insomma le condizioni meteo a San Paolo erano così, un po' variabili, è chiaro che l'acqua per delle slick può essere pericolosa. Però dicevamo che Verstappen alla sprint opacissimo. Le qualifiche non passa la Q1, mi sembra, no? E cosa succede? Cambiano motore e quindi Verstappen, perché la penalità per un'auto che cambia addirittura anche il motore è quella di partire dalla pit lane, cioè dalla corsia dei box, e quindi parti per ultimo, no? Perché prima lasci andare tutti gli altri e poi entri in pista te. Praticamente alla prima safety car già diciamo guadagnato 6 o 7 posti, e alla fine risale e a momenti arriva secondo. Dobbiamo dire che Kimi Antonelli ha resistito agli attacchi. Solido, pulito, gran gara di Kimi Antonelli, anche se non ha fatto una buona partenza, non ha fatto una buona ripartenza con la safety car, insomma una serie di nei li ha avuti, ma è riuscito a portare sul secondo gradino del podio la sua macchina, e dobbiamo dire che dopo un periodo di opacità ultimamente Kimi Antonelli si sta dimostrando quello che il boss della Mercedes, Toto Wolff, ha sempre sostenuto, no? Perché andavano a chiedere: ma Kimi Antonelli è stata una buona scelta? No, io parlo delle interviste fatte nei mesi scorsi, e lui diceva: no, tranquilli, Kimi oltretutto è confermato per l'anno prossimo, cioè io in lui ci credo. E in effetti diciamo che in questo ultimo periodo Kimi Antonelli sta dando della polvere a George Russell, che non è un cattivo pilota, attenzione, stiamo parlando, oltretutto George Russell mi sembra che gli abbiano rinnovato il contratto last minute, ma non per 2 anni ma 1+1, quindi si trova in una posizione un po' così scomoda, però George Russell non è una ciabatta. No, assolutamente no. tra i piloti che si stanno mettendo in evidenza in questo finale di campionato e anche in generale nel campionato, magari senza avere aspettative addosso all'inizio della stagione, io segnalerei Behrmann, sì, pilota Academy Ferrari, comunque nel giro della rossa in qualche certo punto dentro ci finirà, perché sì, perché il pilota c'è già, e il, chiamiamolo vecchietto, Nico Hülkenberg, che comunque la porta Nico, in fondo e la porta a punti. Esatto, Nico Hülkenberg sta facendo un buon campionato. Sauber era la macchina meme dell'anno scorso, che ha marcato virgola, ha fatto zero punti in stagione, sì, l'anno scorso. È arrivata Audi, che entrerà col suo brand nei prossimi anni, non c'è ancora una roadmap chiara. Hülkenberg sta facendo il collaudatore coscienzioso, cioè la porta in fondo alla gara sempre, e arriva in top 10 abbastanza spesso. E porta delle, perché nona posizione per Nico Hülkenberg, che diciamo sono punti che sono importanti per queste scuderie, chiamiamole minori, che però ultimamente, diciamo, nella Serie B del campionato di Formula 1 stanno facendo spettacolo, perché molte volte lo spettacolo è più nelle retrovie che nelle parti, diciamo, avanzate della corsa. Però io, tornando a Verstappen e soprattutto alla Red Bull, devo dire che, a differenza della Ferrari, che sembra una macchina che non puoi cambiare niente, perché anche le migliorie che sono state portate, cioè non cambia fondamentalmente nulla, è una macchina completamente sbagliata, la Red Bull è molto flessibile. Poi sicuro c'è Verstappen che la guida, e secondo me è in grado anche di guidare un muletto questo uomo, no? Perché quando non c'è il campionato la domenica, sappiamo che si diverte a fare altre tipologie di gare, e non sempre sono gare con delle macchine diciamo che hanno le qualità della Formula 1. Quindi può essere che lo vediamo in una gara di tir, ci sono, no? C'erano, non so se li fanno ancora. Corrono a Misano con dei mezzi grossi in quel modo, e c'hanno veramente tanto così di pelo sullo stomaco. Esatto, e perché lui comunque è una, diciamo, un cavallo di razza per queste cose qua. E se io adesso vi do due numeri, no? 341 e 366, che non è un prefisso, ma allora 366 sono i punti della Red Bull in classifica costruttori. 341 sono quelli di Verstappen. Cioè, non so, voglio dire, se la Red Bull avesse avuto un altro pilota o un altro all'altezza, che avesse un minimo almeno delle qualità di Verstappen, probabilmente non si troverebbe in queste condizioni, no? No, è che poi è piazzato bene, perché la Ferrari è 3,62 e ha un 7 volte campione del mondo, e un Leclerc che, poverino, dicono tutti che è un più grande pilota, ma non gli gira assolutamente bene, sfigato, gli capitano tutte. E, tra l'altro, scusa per la passione dei numeri che mi contraddistingue, 366 sono anche i punti di Piastri. Sì, vedi. La Red Bull ha gli stessi punti di Piastri. Questo per dire, capito, che infatti qualcuno così in battuta non la chiama più Red Bull, ma la chiama Verstappen, la scuderia, capito, perché c'è Verstappen che porta a casa tutti sti punti, e anche ieri probabilmente adesso si dice che c'è una grande amicizia tra Verstappen e Antonelli, e oltretutto Verstappen, nelle interviste che ha fatto dopo gara, ha fatto parole di elogio per Kimi. Però c'è da dire che insomma lui è, diciamo, fa parte della macchina, praticamente hanno deciso di cambiare motore, hanno cambiato degli assetti della macchina, cioè negli alettoni, già l'aveva fatto a Monza, no? Ti ricordi che aveva fatto limare, perché gli alettoni che avevano erano quelli, ma lui diceva io lo vorrei un po' più scarico lì, e quindi hanno proceduto a limare l'alettone posteriore. Qui hanno tolto delle alette in quello anteriore, non, cioè hanno un termine tecnico di cui adesso non sto a ripetere, ma anche perché non me lo ricordo, e questo ha dato la possibilità alla Red Bull di portare a casa un ottimo risultato. Io penso che Verstappen non possa più puntare al campionato piloti, non è detta l'ultima. Sono un po' tanti, cioè le gare sono di meno e i punti rimangono tanti. Eh sì, purtroppo c'è un po' di... però se ci fosse una serie di sfighe per la McLaren, potrebbe anche esserci appesa a un filo la possibilità che l'olandese porti a casa un altro titolo. L'ultima cosa che volevo dire della corsa di Verstappen, perché poi alla fine dobbiamo guardare un po' questi fenomeni, no? E secondo me sono le cose più interessanti da evidenziare, che lui ha cambiato le gomme, so se l'ha fatto due volte, tre volte, non mi ricordo, è stata una serie di cambi gomme, e aveva messo sulle rosse e il suo ingegnere gli diceva non esagerare perché queste gomme sono delicate, no? E lui gli ha risposto guarda che non abbiamo niente da perdere. In effetti quando è riuscito a risalire ed è arrivato alla terza posizione e aveva già le gomme un po' alla frutta, perché comunque le ha, diciamo, veramente sfruttate. Non è riuscito a sorpassare Kimi, forse anche per un rispetto, non lo so, questo non lo posso dire, ma sai, quando mancano due giri alla fine tu gli arrivi diciamo attaccato al sedere e hai le gomme messe in quella maniera, sicuramente hai più difficoltà a fare delle manovre un po' azzardate per superare appunto Kimi. Quindi bravo Kimi, che ha tenuto botta fino alla fine, che ha fatto delle grandi prestazioni in questo Gran Premio del Brasile, ma soprattutto chapeau a Verstappen, che parte dalla pit lane e a momenti, cioè se ne avesse avuto di più poteva anche vincere, questo per dire, capito? Cioè che sarebbe un record assoluto, perché non è mai accaduto nella storia della Formula 1. Beh, finita qua, poi vedremo, la prossima sarà a Las Vegas, un altro circuito con altre caratteristiche, dove si dice che la Ferrari potrebbe avere buone qualità, vedremo possibilità, vedremo come andrà a finire. Molto velocemente, la MotoGP ormai in influente, campionato chiuso, manca solo una gara, però molto attenti perché Bagnaia, che era secondo in mondiale dopo Marc Marquez, in questo momento è quarto con soli 3 punti di margine su Pedro Acosta, perché fa un ottavo e un ritiro nel weekend in Portogallo. Un grande Bezzecchi che vince la lunga e fa podio nella sprint, un bellissimo Acosta che fa podio tutte e due le volte e Alex Marquez che conferma di averne, perché lo sapevamo già, non c'era Marc Marquez perché è infortunato in una delle scorse gare, sostituito da Pulega, vice campione del mondo Superbike, che incredibilmente alla sua prima esperienza con la Ducati GP 25 arriva davanti, fa un punto nella lunga. Bagnaia male, occhio a guardarsi le spalle, perché il margine su Acosta è veramente risicato e manca solo una gara. Solo una gara al termine. Bene, chiudiamo così i motori, siamo verso la fine della puntata di quest'oggi. Un po' di pallacanestro chiudere. È andata bene sia alla Virtus che alla Fortitudo in campionato. Siamo in attesa di avere notizie dell'infortunio di Moore. Sembra, adesso gli ultimi rumors, che si sia scavigliato, ma non sia troppo grave l'infortunio. 2 o 3 giornate di pausa per Moore. Peccato, perché insomma, insieme alla Fortitudo era arrivata la 4ª vittoria consecutiva in casa con Brindisi, quindi squadra interessante. Rimane prima Pesaro con una vittoria di distanza dalla Fortitudo. In Serie A vince, dicevo, anche la Virtus dopo la sconfitta col Baskonia infrasettimanale. La cura Burt continua a funzionare in Eurolega, clamoroso, continua a funzionare in Eurolega dopo la vittoria del Panathinaikos. È arrivato e sono 0-3 per ora in Eurolega. Campionato invece la vittoria arriva, anche se diciamo anche con qualche patema, 80-78 in casa contro la Reggiana. Vince anche Brescia, che rimane in vetta alla classifica insieme alla Virtus con 6 vinte e una persa. Anche Tortona, che deve giocare credo questa sera contro Trieste, potrebbe arrivare al primo posto insieme alle altre 2-2. Segnaliamo che senza penalità anche Trapani sarebbe lì, perché ha lo stesso score. È vero, però con la penalità perché Antonini aveva fatto qualcosa. Per quel commercialista di Brescia di cui insomma sappiamo tutto. Esatto. Altre cose, insomma, ad altri è andata anche peggio, diciamo così, no? Alla Sampdoria è andata molto meglio. Anche altri molto meglio, sì. Parlavo di Cellino in quel caso. Sì, sì, sì, Brescia. Quello certo. Era quello che aveva appunto avuto qualche problema in più. Per quanto riguarda appunto invece sì, le altre squadre, Milano si sembra ripresa, anche se continua a fare fatica a fare partite strane, anzi l'ultima l'ha vinta contro l'Efes dopo un supplementare, aveva perso contro Brescia la sfida diretta in campionato e questa settimana ha battuto anche Treviso, quindi in questo momento per quanto riguarda l'Eurolega le due italiane sono dodicesimo Milano e quattordicesimo la Virtus, quindi in questo momento sarebbero fuori dai playoff, questo per quanto riguarda l'Eurolega. Siamo proprio quasi al termine, c'è qualcosa da aggiungere dal punto di vista dell'NFL, vuoi dirci qualcosa? I Bills stanno bene, turno di lavoro sfortunato, so che i Niners se ne hanno prese tante dai Rams, ecco questo, senza ancora riuscire a vedere però le immagini, sai. Vediamo. Poche notizie e cattive, questo, esatto, questo molto chiaro. Molto cattivo, quindi però ci siamo, quando arriva il freddo è proprio il periodo NFL. È iniziato un po' il freddino, Hanno perso anche i Bills a Miami. No, sì, no, sì. Vedi, ne abbiamo parlato la settimana scorsa e non dovevamo farlo. A questo punto siamo negli Stati Uniti, diamo un'occhiata a quello che sta succedendo in NBA, che trova la prima sconfitta di OKC, che era l'ultima squadra senza sconfitte, diciamo così, imbattuta in classifica. 10 vittorie, una sconfitta appunto per OKC, che comunque rimane oltre che la favorita, la prima con lo score migliore, anche perché grazie al fatto che giocano ogni giorno e mezzo, poi ne ha vinta subito un'altra, subito dopo ne ha vinto un'altra, ma torneremo per riprenderci quello che è nostro. Non la posso sopportare OKC. OKC, lo so che non ti piace, però in realtà tutto frutto di degli scambi dei suoi grossi giocatori, hanno avuto negli anni tante scelte e hanno creato veramente un'ottima squadra. Va bene, alla prossima. Dai, c'è la pausa.